il numero il 14. Campo, dai, Bianco, un attimino che scendo giù. Sì, lasciamo qui, allora. Io ancora per poco, che ora è? Le 8, un quarto. All'inizio c'era un po' di polizia in città, cioè io stavo ondulando con discrezione, col mais in macchina, e mi sono trovato i vigili urbani che venivano da davanti, a giorno mi vedono con mais in mano, allora l'ho lasciato cadere e ho fatto finta di scaccolarmi il naso. Poi hanno fatto un giro, sono ripassati dietro, hanno superato e sono andati per altre vie, per altre contrade. Poi sulla 131 i carabinieri davanti, non potevo nemmeno accelerare perché erano a 50. Mi stanno dando la caccia, li stanno braccando. Vedi, però è quello, prima quando tempo fa, quando si modulava, ti fermavo e diceva, prima state con il telefono, non guidate, state attenti, adesso poi con la storia dei telefoni romani sono state bandite, quindi così dicono che stai facendo con la mano, quando stai guidando, può essere che ti stai togliendo una voce che ti è entrata alla finestrina e ti è perforato la cornea, sei multato. Sì, conta anche le macchine con personale in borghese, le moto con personale in borghese. Infatti bisognava avere 1000 euro, ma va bene. Sì, comunque hai ragione, come ho detto prima, la gente non è abituata a uscire ancora a fare. Qualcuno magari non ha mai smesso di fare bagordi, Però la maggior parte delle persone sono ancora con le penne abbassate. È giusto che sia così, almeno se questa cosa va smaltita piano piano, speriamo che passi. Ma è giusto così, comunque, Marco, il discorso è questo, che all'inizio hanno detto che il problema era comunque da un'età ad un'età, e quindi chiaramente le persone più a rischio si sono più o meno riservate. Si sa che comunque i giovani non possono fare a meno di uscire, di fare balordi, però alla fine cioè, chi si è dovuto mettere al sicuro si è messo al sicuro. Sì, soprattutto gli anziani, diciamo, quelli che se ne fregano di più sono i giovincelli. Quindicenni, diciottenni, ventenni, quelli che credono di essere immortali, eccetera. Va bene, mi sono pigliato pure il caffè con la ciambella, cosa vuoi di più? Infatti già sto ingrassando, porca miseria. Sono 10 kg oltre il 10-11 kg oltre il peso ideale. Tutto in pancia e stomaco, Cioè, a questa età è così, tutto pancia e stomaco. Marco Pipistrello. Claudio Fedivella. E me ne vanto. Fedivella sta per, come dire, Mangagliomi. No, Fedivella è uno che mette in moto le moto, capito? Mi ha messo Luca Fedivella. Tanto ti sento un pochino troppo strappato. Cosa faccio? Abbasso la potenza o abbasso il Mikey Gain, secondo te? No, deve abbassare leggermente il Mikey Gain. Allora, abbasso leggermente il Mikey Gain. Lo vedi un po' così, 1, 2, 3, 4. No, ma aumenta il bumper, così te lo registro e lo lasci stare così. Non lo so, qua, così, così, vedi un po' così, così, così, così. Questo è il secondo passaggio, terzo passaggio, come dire tu, come ti piace di più? No, secondo, vabbè. Aspetta, quindi, secondo passaggio è questo, 1, 2, 3, prova. Non tocca, se puntella. Ascolta, non tocco più niente, il microfono invece tra così e così non cambia niente, no, il gatto già cambia. Così è un passaggio, così è un altro passaggio. No, questo è il secondo passaggio. Non tocca se è tamponato, puntella, va bene così, perché ti sentivo troppo strappato. Ho tolto l'NB level, però era la stessa cosa. Inserito, disinserito, strappi sempre, allora così va bene. Vai Marco. Sì, senza dubbio, adesso è ottimo. Io non ho detto niente per non sembrare che sto a criticare le modulazioni, però E vabbè, cacchio, siamo a fare questo, eh. Non è che se uno esce male, uno per non criticare non dice niente. Ma non mi piace, Marco. Io quando sento la modulazione bella dico che è bella, se è brutta ecco che è brutta lì. Non è brutta, la solo da regolare leggermente, così va bene. Eia. Bene. Io sono senza parole, dai. Stacco. Porca miseria, devo fare anche una commissione, ormai è tardi, pazienza, non ne faccio. Ma frega, te ne vattene a letto, fottitini. Oh, io mi dicevo, mia figlia non ha voglia di far niente, mia moglie è sbagliata nel divano, ma non si mangia, non si cucina stanotte. No, mi dice, quello lì, quella si fa una goccia ordinata, io porta un metro di pizza e un cheeseburger con un po' di patatine fritte, a vedere che già ceniamo lo stesso. E me le porta alle 9:15. E quindi sei a posto, no? Io ho mangiato ieri la pizza, oggi non c'è, non mi mangio lo yogurt. No, no, no, già ceniamo lo stesso. Vai Marcolice, roba al forno un attimo. Ehi. Sì, nemmeno io ho mangiato talmente tardi, cioè sono rientrato, ho detto adesso mangiamo, invece poi c'erano le uova da mettere ancora, eccetera eccetera. Quindi pasto unico oggi, al limite sì, un budino, uno yogurt, una cosa del genere. E la giornata è fatta. Comunque sono abbastanza insoddisfatto, cioè sono uscito, vabbè, cosa mi è rimasto? Ho sprecato benzina, vabbè. Ho aspirato un po' di iodio della brezza marina, beh, quindi... Ah, beh, non ti senti meglio adesso? Francamente no. Vabbè, ma scusa, uno va al mare e respira, e non è che vai lì, respiri un po' di iodio e ti devi sentire un leone, no? Ci devi andare per almeno 60-70 mesi di fila prima di sentirti meglio. Dio Maria, 70 mesi di fila. Per carità, io non riesco più a farmi l'estate nemmeno, perché soffro il caldo a livello patologico. Non lo soffro come puoi soffrire tu, di più, molto di più. E quindi l'estate vi promettevo quasi ogni giorno al mare, almeno 3 volte a settimana, dai, proprio male andando. Credo che in tutta l'estate scorsa sia andato 3 volte, forse 4. Volendo eccedere, troppo caldo, lo soffro in modo terribile, terribile. E quindi me ne sto a casa boccheggiante con ventilatori, con docce, fredde ovviamente. Vabbè Marco, il problema non è tanto andare al mare, perché andare al mare noi siamo vicini, ci vorrei un attimo, io prima quando ero ragazzo abitavo in campagna, come uscivo dal lavoro alle 5 mi facevo subito la doccia e partivo a Batavola, parcheggiavo la macchina, allora avevo la 127, la parcheggiavo lì davanti al secondo, al terzo piti andavo, boom, mi tuffavo, stavo 2 ore, alle 9, 8:30, 9 risalivo a casa. Adesso cazzo, per andare al mare devi prenderti le ferie, cioè non c'è parcheggio, devi prenderti, cioè davvero è diventato un lavoro. A me a quel punto non me ne frega più niente, allora se mi devo prendere le ferie per andare a Platavola, mi organizzo e me ne vado al Golfo di Oristano, me ne vado a Villa Similius, me ne vado a fanculo, però cazzo non è che mi può forse fare la villa a parlare del suo pettine. Hai detto bene, diventa un lavoro, anche perché poi io faccio mezzo trasloco mi andando al mare. Vabbè, l'ombrellone è ovvio, però lo zaino è grande, sono uno zaino d'alpinismo con pinne, maschera, materassino, roba da mangiare, roba da bere e molto di più. Spiaggina, il lettino ovviamente perché io devo stare comodo anche lì, insomma alla fine un mezzo trasloco. E poi comunque hanno fatto una gran cagata, andava tutta quinto pettine, ma vai, hanno fatto gli stazzi per le pecore con le cannette di bambù, hanno tolto tutti i parcheggi, una cosa ridicola, ho messo questi pontili di legno, devi parcheggiare 1 chilometro, ma va fangala. Lo hanno fatto apposta per evitare che i sassolini andassero al mare, per dare spazio alle altre persone, quelli che vengono da fuori. Lo hanno fatto apposta, Marco, tutto lì. Però poi i parcheggi sulla litoranea, magari con una ruota o 2 ruote sulla sabbia, e ti trovi il verbale per aver parcheggiato in... capito, pur di portare roba nelle casse del comune, lì, sorce dintorni, c'è anche quel rischio. Vabbè, le multe servono per comunque per pagare la sorveglianza delle macchine, dei praticamente di quelli che vengono qua in Sardegna a farsi le vacanze, no? Tu praticamente ti prendi la multa, cosa stai pagando? Il vigile che controlla la macchina di quello che viene da Milano, da Genova, da Como. E magari quelle non è multa, multa la gente locale, gli indigeni, capito? Ma secondo me sì, secondo me comunque lo fanno, perché io penso che loro comunque prima di multare la macchina ormai al giorno d'oggi con le storie telematiche, cioè ti cazzo digiti la targa, sai già che appartiene, e questo dove abita, perché uno dice sai è venuto da Milano, questa magari l'ha appoggiata lì, dai non gli facciamo la multa, questo dove, tanto questo è disastro, questo abita a due passi, aspetta. Mamma mia. Mi è scappato di mano, non deve mai scappare di mano. Antonio, sei entrato, dai così chiudo, che sono abbastanza stanco, mi appolpo alla televisione adesso. Antonio, Claudio, vediamo se ha risolto roba sul fuoco. Sì, vabbè Marco, se devi andare vai, intanto anch'io sto aspettando che mi fischino lassù e salgo. Via. Bene, bene. E che antenna avevi messo? Quarto d'onda, mezz'onda, 5 ottavi, 6 ottavi, onda intera, collineare. Una bumera da 40 euro. Ah, ma quella lunga, l'EM, quella va bene, mi pare sia la stessa che il profeta, che ho avuto io tanti anni fa. Però se è messa in alto rende quanto una gran play, un quarto d'onda effettivo. E va benino, poi vabbè, chi dice che è direttiva, chi dice di no, per il sicuro meglio puntare il radiale nella direzione che interessa di più, così il lobo di radiazione è soddisfatto. Ma io la verità, il radiale l'ho puntato al mare, quindi giù, verso la zona più libera che ho, perché io mi ricordo quando ero bambino che mi ero, come si dice, addentrato in questa storia della 27 MHz, mi hanno sempre insegnato che se hai un'antenna con un radiale devi puntare alla parte più aperta che hai, e io ho scelto la parte che vedevo di più, è Platamola, la casa mia. Anche, ma tu dove sei? Zona tipo Vittorio Giove, dintorni, comunque zona buona. Sì, sì, Vittorio, sì, sì, sono qui in circolo. Caspita, quella è già bella alta, quella è un'ottima zona. Figurati se avessi messo 5 ottavi e manto per simili. Ok, va bene. Saluta Claudio, quando rientra Antonio, se quando rientra, insomma, io chiudo, dai, mi dedico altro. Ciao Antonio Risè, ci sentiamo. Ehi, ciao ma, buona serata, buona visione di TV, rilassati, ci sentiamo magari con più calma alle prossime. Ciao, ciao a tutte e due, dai che è quasi pronta la cena. Un abbraccio alle prossimine, circolare a tutti, ciao ciao. Ciao Clark, a te, un bacio in bocca e alle prossime. Grazie, Antonio, altrettanto, contraccambio. Aia. Marco, riprendi per i saluti e poi ti congediamo. Ciao Claudio, buona cena, buon tutto e alle prossime, quando capita. E c'è un calo notevole comunque dell'hobby e della passione, proprio, eccetera. E vabbè, così capita, ci sono giorni più e giorni meno. Anche io prima ero molto più appassionato, adesso boh, non lo so, mi appassiona, vabbè, io ho tante cose a cui pensare, un sacco di gaggini in testa. E poi non certe volte non trovi argomenti da portare, cioè fare quei bei discorsi, stare tra la sera a parlare di un qualcosa, no, a trovare magari microfoni radio, così non c'è il tempo, anche io ho esaurito gli argomenti, francamente. Ma non è quello, non, ma più di argomenti ne avrei tanti, ma ne discuto tutti i giorni con clienti, ne discuto con fornitori, ne discuto. Io passo tutto il giorno in mezzo all'elettronica e quando arrivo la sera la testa mi fuma. Adesso sono qui che stavo riparando delle schede delle schede di antifurti, di videosorveglianza, di cose che avevo, e vi stavo ascoltando prima, ogni tanto ho fatto qualche passaggio, però ripeto, non ho più come una volta, là, tutto lì. Va bene, rinnovo i saluti, QRT esecutivo, ciao ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Marco, ciao, alle prossime. Drogati, drogati! Hai finito di rompere? Drogato! 2:45, drogato di Badesi! No, il vino è di Badesi. No, io bevo la sabbia. Ma la bevi, non la sniffi? No, vabbè, ovviamente, faccio tipo... come si chiama? L'ortellato, come si chiama? La... non il tè, la camomilla, l'altro, la tisana. Ah, trova la tisana così, alla speak my glotch. Cara, te lo fa indurire, lo fa. Grazie, noi. Tu finito avete? Ah, no, ancora no, Andrea. C'ho un sacco mosso, perché è mosso. Fernando mi ha detto, ma non avevi visto, da fuori di un vinciaccolo. Tanto abbassa un po', sei troppo alto, sei troppo vicino, c'è un bel altro di radio. Luca, ti posso chiamare al telefono o mi chiudi la chiamata? C'ho poca batteria, c'ho la batteria quasi a zero. E quindi non ti posso chiamare? Deve caricare almeno al 30-40%. Vabbè, l'hai messo a caricare, perché ti devo chiamare al telefono. Capo. Ma va toccato, non va bene così. Ma lui c'è troppo vicino, ma tu, tipo quel che vorresti creare, ho detto abbassalo per una pena. Toccato, ho toccato, io sto sempre parlando così. No, cazzo dai degli acuti, mi serve Boccelli, cazzo. Boccelli? Come si chiama il soggetto che canta lo da noi, Boccelli? Boccelli, magari Boccelli. Ma aspetta che devo chiamare un attimino a Luca, che ho bisogno di parlare con lui. Eia, va bene, sono qua. Dai che mi faccio queste quattro saldature nel frattempo, ciao. Già sono qua da tu io, tanto sono rientrato. Adesso mi impigiamo, già sono un bel po' stanco. Comunque, dai, già rimango un po' in radio. Ascolto la chiamata di Claudio, aspetta. Eia, sono qui, mi sto facendo queste saldature. Devo fare questa programmazione di questa centrale di antifurto. Adesso ho lanciato il programma, adesso devo aspettare che... e poi faccio la programmazione dell'EPROM. Eia, va bene, va bene. E quindi stai facendo pavimenti? No, pavimenti, no, non si può pavimenti. No, smantellando pavimenti, massetti e che ballacchi. Dai, facendi. Eia, aspetta tu. Ciao Fra, è tutto bruciando. Adesso no. Perché c'è la cuccia, ho messo la cuccia, mi ho messo. Ti credi più bello perché con la cuffia? Beh certo, ho messo la cuffia così ascolterete. Ah, perché non me ascoltare. Ma vuoi di più? Faccio la rete, gli ho messo di forza. Sto guardando, sono felicato che sto guardando, ufficiale. Uccello sto secco. 1, 2, 3. No, va bene, già va bene. Aspetta, sta attaccando un filo. Dove è il microfono? Franco Galivorni, agente di Guardi, Denis. Chiede. Ah, bello, Gabriello. Sento questa modulazione che è... Chiede. No, è sì, sì. Sto controllando la piazza, la fa, aspetta. Chiede, chiede. Ora, 1, 2, 3, 4, ora, 1, 2, 3, ora. Antonio Riserva, ci sei? Ora. 1, 2, 3, prova radio. 1, 2, 3. Hola, 1, 2, 3, prova. Prova radio. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova radio. Ciao Fra, sto provando una cosa, adesso sta uscendo adesso. Vabbè, dove vedi Radio 5? Ma cosa sì, ancora con questa antenna minore? No, sto uscendo con il forse sono che facendo la giornata, perché oggi è impegnato. Se non ce l'ho fatta, abbiamo fatto, anche perché c'erano le tele ancora bagnate, quindi... Adesso si raccogliono l'asciuga, non posso fare niente. Kappa. Adesso sta funzionando, adesso lo proviamo. L'ha già visto, boh. Sì, l'ha già visto il microfono. Ho preso il microfono, ma dove sta andando? Ma io ci ascolto bene adesso. Va bene. Andrà bene, mia figlia. Bene, bene, Fra. Adesso mi ci sto piazzando la vite. Kappa. Avanti. Ce l'ho girato, ce l'ho, è per quello che mi senti così. Guarda a vedere se va meglio. Ce l'ho girato, sto mettendo la vite. Ma sono il segnale, sì. Ho detto che basso di segnale, sei tu, non io. Aspetta, tu non stai uscendo per niente bene, tutta pizza, tratti, tu. Guarda a vedere adesso. Adesso sì. Tu sei il basso di segnale, non io. Ah, fai scherzare, sai. Quanto sta arrivando lì a latte dolce? 9:20, sì. E qua è 9:30. E io già ne gioco io. Qua è 9:30, Antonio, segnale suo. Oh, Tony, tu sei sempre Santiago 5 però, ricordatelo. Veramente. A me mi piace 601 che va bene. Vabbè, fai il sito di se arriva un'ondata di QRM io non ti sento, poi. Non so, vuole cambiato, vuole... Ho capito che cos'è, là, c'è qualcosa al micro. Aspetta. Ma va... No, ho tutto. Se va perché non ce l'ho tutto dal micro. Cambia radio, Anto, cambia. Andiamo, andiamo, cacca, come una bonifella. Dove è Luca in bicicletta? Quando usai? Luca. Nara, ciao Luca. Adesso mi tocca avere il tuo segnale, quando ti vado a Santiago 5, io penso ci sia qualche problema, se poi sei tu che metti la potenza a zero, sei libero di fare quello che vuoi, ma giustamente io ti devo avvisare, no? Vabbè, va bene, va. Non lo torna al massimo. No, io non la tocco mai, no. Le radio si lasciano ad una potenza e boh. Sì, Anto, adesso vai benissimo, 9:20 Radio 5. 9:20 sto arrivando. Prova. 9:3, prova. 25, sì, con l'altra eri leggermente più forte, dai. Ah, ma meglio mi sentite con questa? Beh, come va così? Signore, non è possibile, cazzo, ma quella è sempre su. Cazzo! Dai, occhi! Avanzo, avanzo, piglio la misura delle stazionarie. Avanzo, piglio un po' se la misuro. Riesci a vedere? Ma cazzo dove arrivi? 9:60. Com'è che l'ha pescato della linea qua? Hanno saluto bene, un'antenna grande, un bel palazzo, un bel palo. Boh, io vorrei mi fondo scalo tutte le luci. Com'è che ha un campo, cazzo, una cosa di via, almeno arrivi una 40 e 3, 4. Ma c'è un ottimo segnale, glielo ho sempre detto, va bene, tutti deve stare lì a tira e molla. Va bene, cazzo, sono quadrati ridesivati, con un baracchino, modulati, la potenza del gas, Tony, che l'ho misurato a quello wattimetro, praticamente così come ce l'ho io, è 12 watt, modulati 15. Boh, non la tocco mai, va bene. Ma non ci sentiamo tutti, non c'è bisogno di stare uogni attaccato, non gallignare. Non vi metto a chiamare i nonghi. E appunto manco si muove sta cosa. Vatte. Una cosa allucinante. Ma poi va bene. E ha toccato il dito anche il micro. E detto power. Adesso manetta e basta. Ecco. Uno e tre prova. Lascia la logica, va bene. 925 sei Antonio, Radio 5, io ti ho preso bene. Aspetta, Antonio, 960, sei a fondo scala. Cazzo, Tony, adesso sto facendo le prove. Stazionari sono a zero, come faccio? Cioè, non è che sono a 960. Sto facendo le prove per vedere se le stazionarie sono a posto, non ce n'è. È a zero, a 1 e 1 proprio, si muove appena lago. Cioè, mi hai fatto venire il dubbio e sto facendo le prove. Però, se io vedo che non c'è niente, non so spiegarmi. No, adesso sto facendo bene, la verità. Se mi dici 7 con 0 non ci credo, se mi dici 1 e 1 ti credo, perché 0 non esiste, 1 e 1, perché parte così. K, 1 e 1 è, 1 e 1 va, non ne dico bugie io, sì, 1 e 1 manco si muove, già va bene, massima potenza, sì così, va bene, vai zitta. E io al tuo, ti stai parlando mica adesso. Da Santiago 1 a Radio 1. E chi? Allora sta arrivando, Santiago 1 a Radio 1. Chi sei? Santiago 3. Cazzo, Radio 0 quasi. Chi sei? E viva ciao fra! Ciao. Avevo il dubbio, avevo, cavolo, e me lo son tolto. Adesso già, va bene, là. Ecco qua. È perfetta. Ma tu e io meglio di stare male. Sì, bene, bene. Ah, vedi. È la minima potenza. Si guardate così, bubble, fate attuare lo sgocco. Adesso c'ho la power, la manetta. Dice che da solo la previsione, come un casino, via. Così è. E Luca lo è. Ma io della vista, ecco. Ma a me qua. Ehi. Ehi, sono qua, sono qua. C'è anche Luca del Monte, bu. Fuori bicicletta. Per il vela si chiama. Buh, in bicicletta, un gioco. Per il vela gioco a me, chiama a te, bu. A me per il vela. All'arte gioco senza per il vela. E beh, lui preparata è quella roba. Pronta a mandare. Sì, già fatto anche tutto il 15 qua. Ah, beh. Ecco, il microfono è messo a posto. Ma ti deve venire Claudio a prenderselo? Quando sì, voglio scendere io, devo vedere. Ehi, sono un po' che non lo vedo. Se c'è la sassa lì a farmi uno squillo, ci prendiamo un caffè. Ecco qua! Adesso sono ritornato nelle mie abitudini. Già andava là. Sinceramente, sembra che stia parlando dentro una scatola. Una scatola? Di cartone? È strano come radio. Come strano come radio? Ma se va meglio. Ma se vuoi ti registro e ti faccio sentire come stai uscendo. Sai quello che vuoi. Ti va bene così. Contento tu, contenti tutti. Ah. Beh, vabbè, io Antonio l'ho sempre sentito così, mi torni forse perché tu sei meno presente di me, però la modulazione di Antonio è questa col baracchino, con questo baracchino. Che sta usando adesso? Quello che usava prima è. Ecco qua. Vado a vedere. Perché ero in piedi, stavo facendo roba e io credo mi sentivi così. Guarda per se va bene adesso. Adesso ti sei seduto. Vai bene, perfetto, lascia così. sono le chimie su spot. Ma non sa calmo, il capo giaccio con l'armoso stasera, boh, lo sapevo che ti dica, boh. Ma che devi essere nervoso? Lui era il suo prigione. Perché c'ho le balle girate? Perché mi si è passato, mi si è passato un microfono, la bicicletta, tutto quanto, ma cioè, sono nervosissimo qua. Cioè, avevo più tutto e pacco tutto quanto in ogni dritto. La fine mia, entra a camomigliare e basati. E rilassati, poveretto. E fai la cosa con la testa, così pacchi tutto. Cosa vedi se fai la bicicletta, il microfono? E che ti si faccia lo scalarmagno e lui si faccia la lavatrice, poveracci. E allora? E che si faccia lo buru buru. E chi sono cazzi suoi? La canna virata, vada poi. Mi, Luca Cavalletto. Domino Cavamella. Domino Cavasacchi. Giuseppe di Timogli. Antonio, Antonio, lasciate stare santo a pace, dai, facciamo bravi. Tony, la motivazione di Antonio è quella, non è che la puoi cambiare, non ci sono alternative. Tonino, ora ci fa un Kawasaki in riva al mare? In servizio, aspetta l'onda, lei la sua giù che si è fuggita. La bicicletta Luca, dammi la bicicletta. Ah, stamani si è climata la canna, non mi si guarda l'interno. Ma che è il bello. Oi, poi ci ho preso un buon caffè, a parte scherzi, allora è sola. Ma roba. Quasi di fronte che ero poi un po' più su, quel marco mattino. Aspetta, te lo dico io, come si chiama quello piccolo? E là, come si chiama quello di via... quel bar piccolino? E là? In via... dove c'è il centro... a Fannapoli? E vicino a Canapoleno? Il baretto. Il baretto. Buono, quanto è Clau, Ehi, buonissimo, sì, molto buono. E io vado lì da... non te lo farò perché c'è anche il tabacchino, però qualche volta l'ho preso anche lì. C'è anche fumo se ti interessa, Lì, lì c'è di tutto, c'è anche cipria. Vabbè, dipende dai gusti. Vabbè, io ho valutato un idrato bobo, idrato birbrofumi. Cosa che capita, ciao, buonanotte a tutti, un abbraccio. Ciao Antonio Rese, ricordati di mettere benzina domani. Ciao, perché? È brutto fuoco. No, che vado a gas, ciao, vi abbraccio tutti, ciao. E cosa fai? No, abbracciare a te bisogna fare il giro. ciao, se ho fatto un'altra cosa. Fallo il giro, saltami. Ciao, Luca. Ciao. Ma poi da me sono un po' buve questa cosa, che ho passato il microfono. Tanto la bella clave e il controllo, io non trago più, sei Monello. Ti arrabbi perché ti sei rotto il microfono e la bicicletta. Per di bella. E sto facendo orario, là. Bea, allora vuole lì su, vai a musica a Torino, musica a Torino. Vai a Torino, vai. Tu che rimane non l'hai mai visto, no? Se lo vedi, se ti piacciono veramente i cani, te ne innamori solo qui. E a me i cani piacciono tutti. Qualsiasi cane mi avvicina a carezza mi fa il cuore. E muove la coda. Sento la cosa già per i cani miei, poi tra l'altro. Loro vanno a fiuto, capito? Sanno già che uno vuole bere il cane. Vedete che masola che non si muove a visitare il mio segreto. Ma questo qua è piccolissimo, no? Che male piccolino. Non dico che te lo puoi mettere dentro il giubbotto, ma quasi. Chihuahua. Chihuahua, no. Ciao Antonio Rise, andato stai. Ma si muove? Avanti. Buonasera per mio hermano, doppio rum, avanti. Ciao Gian, buonasera. Ciao Gianni, ben entrato. Doppio rum, rum. Ciao Tony. Tanto non ti sento bene per radio, ma attaccato. È tutta la sera che è virato, gli si è rotto il microfono, gli si è rotto la bicicletta e lui fa già tutto. Mi dai con me? Tu l'hai detto a poco fa a me. No, sto facendo a Gianni. Ma ti sento assato, buco. Non niente. Staccate, non servono niente i lineari in città. Siamo cazzo quattro iati, tutti e quattro attaccati. Allora me se va bene adesso. Prova tu. 1, 2, 3, prova. Lascia così che sei un amore. Io a te ti sento bene. Sì, sia attaccato che staccato, non c'è problema per me, non lo saccio. Aumentiamo un po' di potenza e va alla stragrande, beh, la potenza del baracchino. Per me va bene, sia prima che dopo. Oh, ma ci credi che ero più forte il radio che tu a tu? È grazie ai baraconi che hai fatto. Oh, e lì avere tu sei più vicino a me qui. Ma sono con 30 gazzarella, sono 30 rumorso. Scusa, prima li vai più forte lì, così li tieni. Sono dentro il fosso, sono, cavolo, non sono... Io vorrei che voi venisse qua e lo vedete con i vostri occhi. Dove sono io, dove è Claudio? Claudio è una persona, è in una parte aperta, aperta a tutto. Io non sono aperto, io gioco dentro al buccio. Ma scusa, hai cambiato casa oggi, per caso? No! E allora, se ti ascolto sempre bene, adesso se sei anche inferiore. Io so dove è Claudio, e Claudio mi arriva sempre col segnale. E lei è 9:20, perfetto, 9:22 con esattezza. No. Io sempre qua sono, sempre qua sogno, col mio Saturno. E senza nulla attaccato, potenza della radio. E sono là, più che contento di questa radio. Ce l'avevo già anni fa e l'avevo data là. Noi ci manco, ci mi ammai, era il pregio d'oro. Altrettanto ti dico anch'io. Bellissima radio, Tony, veramente. Aveva ragione Gianni. Gianni mi aveva dato l'input già da quest'estate. Compratela, compratela. Però avevo un po' di radio in mezzo alle palle. Il posto non ce n'era, poi c'erano tutti gli HF. La parte amatoriale, eccetera, adesso ho fatto la scrivania solo baracchini. E finalmente l'ho messo, basta. E no, giambo, più, manco, per l'anticamera me ne basta. Tu ho cercato, sono riuscito a loro, ho fatto vedere il barone a Cagliari e sono poco soddisfatto. A tutto, mi piace, è bello. Io Tony l'ho comprato qua a Sassari e ti dico che sono contentissimo, ho pagato 200 euro, ma mi hanno fatto lo sconto, ok, però me l'hanno lasciato provare senza nessun problema. L'ho provato, visto, piaciuto e pagato. E noi ci manca misericordia, è nuovo, sia dentro che fuori. Mi sono verniciato i maniglioni perché erano un po' graffiati, ed è nuovo, bello. È un bel baracchino base. Penso che, come ho sempre detto, e tutti lo sapete, io ho sempre detto che è la miglior radio, baracchino, per la 27 è il Galaxy Saturn Echo. Chiaramente di questi un po' più moderni rispetto al DAT, perché come bellezza il DAT è molto più bello. Però questa è veramente un bel baracchino base. Chi è che voleva entrare con un po' di alternata a fondo scala? All'inizio stavo parlando qua. Io invece sto usando Link, e te come sta andando? Mi è Gianni, allora è molto importante, l'alternata ve la vedo. E chi? Gianni, tu sì? No, sto uscendo perché. E alternata, sì tu. Ho detto, sto usando Link, e te come va? Sì, ma c'è l'alternata presa. C'è un'alternata già allucinante. Va bene, adesso? Dai, bianco per me, dai, non sono di buon umore. Tu, dai Anto, tirati su, cazzo di microfoni anni vasini, Madonna Santa, te l'ho anche detto, dammelo che te lo controllo. Avete parlato in due. Cappa, dai, ci sentiamo dopo, adesso non mi va a fare a chiacchierare qua, cioè, ce li ho girate stasera. Sì, vabbè, dai, sono cose che succedono. Gianni, fammi sentire questo internet. Guarda, 1, 2, 3, prova. Ma io sento il nome di alternata, Tony. E lascia qualche secondo la porta anche sotto senza parlare. Guarda, a vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alternata. Oh, beh, però. Ma qual è quella base celeste? Sì. Un altro figato, per carità. L'altro giorno l'hai provato con me e alternata non mi aveva. Ma va l'alternata. Sacanino già. Tanto ti sei messo veramente a staccare e attaccare. Mamma mia, bella, ragazzi. Qual è? Il vecchio 8000? Ehi, quello verde. Troppo. Sì, con gli apparati buoni che c'ha anche classico, dove attacca il Vabbè, ma cioè questo nome di alternata di nuovo è un casino. Io già vuoi ti dico? No, io lascio questa per fare due chiacchiere 27, appena arrivo al 430 lo metto lì, lo attacco, lo accendo, le attacco ogni tanto l'antenna, ma non me la fotti più nuda. Io uso questo baracchino che va benissimo alla grande, già l'hai visto come esce bene. Ma già in giamina ha fatto il bille io. Sì, ma quanto un altro, dopo se la va, l'hai fatto ora. Boh, non lo so. Poi ci vuole qualche massa, non lo so. Non lo so, e anch'io ne ho un bille, non ti preoccupare. Ne ho 8 basi, uno più bello dell'altro, però questo è quello che mi fa meglio. 574 è bellissimo lo stesso, c'ha le bande laterali, 40 canali, anche l'altro 40 canali, e Nagio 40 canali, però questo è il più bello, mi piace di più, perché se io ti commuto adesso me, questo è il Tana più 3, io ti commuto l'Innovite 294, ti commuto me, un secondo ci metto, lo accendo, ti commuto l'antenna col commutatore e uso l'MB più 4, mi dici se esce bene, guarda. Ho fatto prima io accendere la radio e tu accendere il condizionatore. Il segnale è più basso perché questo c'ha 4 watt, eh. Però guarda la radio, esce benissimo. Il segnale più basso, la radio ultima 5, perfetta. Ma io l'ho spinto con così, tu sei troppo caldo. Si conferma, no, questo va bene, chiaramente non ha il segnale del Gacci perché c'ha 4 watt, quello ne ha 15, però come radio la senti, ed è un MB più 4 nuovo, originale. Già va bene, qua. Gianni, dopo attenzione, binario 10, vabbè. Questo è Luca, grazie di nuovo, mi fa gioia. Attenzione, binario 10, sentite questo modulatore che modula, gabba gabba. Avanti, che binario 10. Ah, funziona, gabba. Certo che funziona, tutto funziona qua. Ah, bomba, allora funziona. Meglio sì, dai, gabba. Gianni, doppio room, ci sei. Questo qua ti devi mettere in macchina già, se vuoi te l'ho preso, tanto è sempre fermo qua, gappa. Non c'è il magnum in macchina lui. Il gelato va in macchina. Cosa c'è? Il gelato. Ah, è vero, il magnum PI. Cioè, il magnum alle mendole. Adesso sta cambiando il baracchino perché facciamo alternata l'altra. Eia. Gappa gappa, aspetto lì che esco commuto e attacco il 5574 della Midland, quello ti ricordi che ce l'avevi anche tu, che io l'ho fatto fare nero, eh? Gappa, già lo riconosco, è bello quello lì stesso. Allora io sono preso a Momolino, Momolino che sei? Ti fai un po' di modulata, attacchi in lineare, invece si pompa. Attenzione, Franco California, senti qua, vita mia, gappa gappa. Geniale, lui è a te qua. Stavi di comitato in 40, capo. No, ho detto, vabbè, io sto usando. Questo ne ha 8 watt, Tony. Appena di più, dai, 7. Sempre con gli stessi microfoni, ognuno c'ha il suo microfono. Questo è il 574, non va bene? 9-10, però è sotto l'ultima. Cala sempre la potenza, però come vedi le radio sono buone. Io il comodo, Tony, non tocca a staccare nulla. Ciao California, Lu, una bomba che ci ha dato, non te la vindi che ci dobbiamo divertire nel 45. Santiago 7, Radio 5. Ciao Franco. Ciao Tony, è da te quanto sono Tony? Qua sei 9-5, Radio 5. Sento, con qui Santemino, io di numerico. 9.50 qua, sì, 9.30, gatto. La radio va bene, sì. A voglia, tutto Roger qua, frate, non ci sono problemi, gabba. Non ce n'è, questa radio non ci sia. Non ce n'è. Mangiare, che fine ha fatto? Non lo so, Tony. Gianni Marisella! Lo io ho un po' di fusione di QRM. Tonino, ti arrivo, va un po', aspetta. aspetta, aspetta. Va così. Va così. Si aumenta, ora un po' là. Da 9:15 alle 20. Va bene, dai. No, metto sempre così, questo puntino bianco. Aspetta che passa un po'. Alternato ancora? Sì. Sempre. Scusa. Ma hai cambiato la rottina? No, no, sono le barattine. Se provano l'alimentatore. Allora l'alimentatore, cos'è lui, casino, gà? Cambialo, ne hai, gà? Belli, grossi, perfetti, silenziosi. Se ci conferma, cambio. Cazzo, no, manco controllato la schedina, gà. Vabbè, se sono un milionario, me lo guardo domani. Milionario o miliardario? No, non voglio essere miliardario, l'unità. Perché se voglio essere miliardario, non dico nulla. Dico, milionario, sono più tranquillo. Vabbè, va bene, anche 20-30 milioni. Ma io già dirlo. E allora? E qui c'è miliardario? No, aspetta. Ci sono milioni di euro e sono anche miliardi di euro. Quindi, il governo parla di 200 miliardi in euro. Io parlo di milioni. Sono più modesto. Ma scusa, per capirci, se tu dici 30 milioni di euro, sono 60 miliardi, quindi sempre miliardario sei. Lo so, però giustamente io vado come dicono loro, ci sono i milioni, ci sono i miliardi, ovviamente i miliardi sono molti di più. Però essere scacciato da 20 miliardi di euro sono troppi di anni. E che tu proprio la giù la strice qua, eh? Dai, dai. Cambia discorso, sennò poi ti svegli tutto sudato. Ma ha giocato un treno, ha fatto un gruotto, gà. Ma io gioco una volta all'anno, mi rimasto assai. Anzi, la signora me la gioca lì. E me l'ha giocato la signora quel mattino che stiamo parlando, mi sono preso il caffè. Ragionami tu, dai, per carità, lascia perdere. Gianni. Ma Antonio non c'è più. No, Antonio, lasciatelo sfogare un pochino, se no davvero lui si umilia la lampada tutta in terra e faccia tutto. E se passa la bicicletta, eh? Quando parte la giornata no, poi lui già c'è un lavoro particolare. Sicuramente è arrivato a casa già incazzato dal lavoro, che l'avevo cotta, che l'avevo cruda. Perché è molto tranquillo, capito? Una persona molto tranquilla, quindi io lo conosco bene. Quando si incazza vuol dire la giornata non è andata bene. Già lo so, da dove lavora poi arriva a casa sua. E se qui specialmente con la bicicletta in mano. Forse mi ascoltate, vedi che bucciato l'alimentatore, non messo un'altra alimentatore fuori. Ok, ma non ti mai sei bruciato? È possibile? No, sto fumo, tutto. Non è che dato troppo sto momento e non ce la faccio veramente tu. Che cazzo, 32 ampere? No, allora no. Giù, tu c'hai quello ammettatore, quello ce l'ho anch'io, vai, quello là di CC là. No, là si è bruciato, quello dello strumento. Ica, quello era bello, là. Fanculo, la scelta per la calata preferita. Ancora se non sono mai cazzato, se sarà bruciato. Ma allora, adesso ho collegato quello dei cinesi. Usano sempre quello, per le altre cose, perché il galaxy va a 2:20, capito? Però, come sto usando... Perché il VR, grazie a Dio, sta sempre andando bene. Quello da 25 va, del 25 ampere. L'acqua 35 è sempre staccato. L'uomo nuovo, come l'ho comprato, la sono a parte. Sicuramente è partito qualche condensatore, vedi? Se è chiamato la rete, ho visto il tuo, ma non mai lo sento subito. Comunque, non c'è problema, se vuoi, ti dico questo con la 35 ampere che non lo sto usando, lo fa. E dammi quella, vero? Questo del domani lo guarda cosa è successo, non è che si è scoppiato questo condensatore, perché ha fatto tutto di plastica. Adesso ci sentiamo fuori, dai. Cioè che ho l'accordo, così te lo presto, con la 35 ampere. Lo devo registrare con il trimmer che c'è lì a fianco per 13,8, perché non ho mai toccato quello lì, capito? Fissato, per essere più regolare con il test, ve lo controllo e lo regolo. E intanto quello che ci faccio io l'ho regolata per il CEO. Sì, va così. Ebbene, Claudio! Ehi, nel frattempo... Aspetta, c'è un telefono, nel frattempo ho ricambiato il gas, aspetta. No, qua si sente, si sente. Gianni Duccio! Ehi, ciao Fra! Ciao, come stai? fuso qua, non si è copiato il disco. Chi come vai? Ma che cazzo mi è scopo? Ho visto il fumo e lo sento. Sto facendo il fumo là dietro, si è tirato la cosa e si è bruciato. Sì, lo prendi, dopo. E l'altro, quell'altro va con l'alternata di brutto. Se vuoi andiamo bene, andiamo, perché è venuto su, va a fanculo, dai. L'altro mi dà alternata, non mi fa, non si sente adesso, non attacca e te lo faccio sentire. E allora Domi, allora che si dice, che si dice? Domani chiude? Non è che guarda la televisione, sinceramente. Boh? Cazzo, domani era più chiude, non mi sta chiude, no. Sabato forse non mi ha dato chiude, però la chiude l'ho, non è di bello. Ma sì, sempre con quarantennino fa. No, con quarantennino di Claudio forse. Sì, allora è bene. Vabbè, bene mi ascolti. Cazzo, fratello, non verrà di uccidere. No, vabbè, dai. E mai se lo metto a casa, perché non posso pretendere più di tanto. Lo so. Ho cazzato a Manuele, il nipote, l'ho fatto. Stamattina è tutto a posto. Vai qui, dice Franco. No, non posso andare qua. Franco, vai qui. Franco. Franco. La senti? Hola. Ci sei già? Ehi, come va? Non è altro, no. Sì, allora, non dipende dall'alimentazione, dipende dall'antenna, appunto. Ma scusa, tu fai troppo giù con questa antenna già, tu fai casino, beh. Cazzo, scusa, alle 15 ti senti bene, qua io alternata non l'effetto, Claudio alternata sì. No, prima ce l'aveva fra, anche Claudio lo senti, un po' tutti quanti. No, comunque già stai arrivando bene, non è alternata. Ma secondo me trova una antenna già, è possibile. Posso proprio hanno detto stasera, poi ci sono anche sotto qui e sera, anche con tutto l'altro apparecchio per vedere quanto la porta, quanto la porta in giro. E come mai adesso non c'è? Sì, vuol dire che adesso faccio da un po' di là. Eccomi qua, qua. Che mistero, voglia. Ma già, stavo dicendo che... Adesso sto pilotando, ho quell'antenino piccolo nero. Quello che ne viene la mano? Sì, no, quella grossa pilota, quella piccola. Questa qua è quella caricata. Cazzo, se ne ha comprato una Marco Condor che è favolosa. È piccola, presente l'antenna per la radio, quella di sbieco. E così tu la metti al posto dell'antenna della radio e non si vede nulla, sempre l'antenna della radio. Magari vatti usa Marco Condor, vatti tu usa. Cosa? Ho detto quanti watt usa Marco Condor? Non lo so quanto ne ha usato. 4 watt, io vorrei 100 watt, che se antenna si sciogli. No, non si scioglie, la più gomma diventa già. Tu cosa c'hai mai in macchina? Il magno c'hai, cosa c'hai? Io metto il fenomeno. Già, andiamo a vedere, leggi bene le caratteristiche. Quanti watt c'ha il S9? 30? Sì, più o meno, 20 appicchi 30, dai. Ma io lineare non le uso in macchina, l'ho usato un paio di volte e poi non l'ho più messo. Se metti quell'antenna devi usare solo la radio, poi, è bella, è molto bella, è bellina, ma infatti l'ho vista, e l'ha giudito, c'era molto dell'antenna della radio, e poi attaccata c'è quella della... No, ma non l'hai visto bene, ma non l'hai visto bene, poi mi ha mandato la foto, ma non ha capito quello che ti ho detto. Infatti lui non aveva capito, pensava che c'era due basi magnetiche, invece ce n'è una solo piccolina attaccata a quella della radio. Fuori che ci fa bene, ma mi ha mandato le foto, allora quella della radio l'ha svitata a tutti, ci ha messo davanti a quella della radio e ci ha messo quella il baracchino. Io ci ho detto così, senti, lui mi ha detto ma due antenne hai visto? No, una, non due. C'è il mozzo della radio, però l'antenna non c'era, e attaccata c'è quella del baracchino, però l'ho vista la base magnetica piccolina, simile a quella che c'hai tu. Esatto. Cazzo, sono passato a 2 metri, l'ho anche suonato, solo che c'avevo il casco, lui non mi ha visto, non mi ha riconosciuto. Poi ho visto anche dove ha parcheggiato, dove c'è Ernesto, e lì ha fatto la foto. Ma Marco quando guida è molto inquadrato sulla guida, sta attento alla guida e basta, non saluta nessuno, niente. Ma Marco è un Condor, è cosa? Lui si chiama Marco Condor, non Condor. Ehi. Avanti Tolino. Torino si è sentato un attimo. Avanti Franco, racconta. Sì, ora ti racconto. Vado a passare, io ti faccio un sbigliatino, un sabato e un erastella lì. C'era un vento argentino che non faceva neanche per la canna in mano. Oggi se invece andare a pescare, se ti salvi la sera, ce l'ha presa già buttata sul vento. C'era bella giornata, a roba più freddo, freddo. Hanno messo freddo, gelo. Ero solo dunque, ma c'erano le tegole ancora bagnate. Non posso salire che faccio danno, certo. Ma arriva freddo gelito, allora domani gli mongo l'impermeabile all'antenna. Bravo, bravo. Luca Pottino il vostro domani alla mattola, riuscirò a pigliare freddo con la rete. Dice che anche basse quote nevica, magari usino cose da lì, sarà anche la rete, così andiamo a fare fotografie. Sto Bassaredda e oggi, 600 metri, è Bassaredda, oggi non va in alto. Può nevicare anche qua, qua siamo a 300 metri lo stesso, 280, tu sei più basso. Può nevicare anche qua, via Milano, la parte alta, sicuramente. Ha dato sotto zero. Ma cos'è, tramontane? Ah, tu, ha detto che praticamente ci dobbiamo dimenticare questo caldo primaverile e che dobbiamo, non pioverà, però ci sarà freddo gelido. Adesso praticamente sta a 20 di bora. 20? Ehi, abbia già il culo vento. No, non me ne frega più niente del vento oramai. No, io stavo leggendo, il meteo c'è 16 gradi domani, però acqua a dirotto. E a tre bande celesti. E comunque se un sabato non piove, il salto la finita la mano. Franco, sì. Guarda che dovrebbe avere un fusibile interno con l'alimentatore, guarda a vedere, apre le guanta, magari il fusibile va. Gianni, è uscito fino. Ho spento perché è uscito fino alla dietro, c'era dentro la bucciata, si è chiusa la ventola. Cosa, non è andata a funzionare la ventola? Che sono fliccato e la radio ce l'ho vicino al letto, infatti sono lo scarato, poverino. Curarino, beh, io mi sono bisogno di prendere questa gamba. Adesso c'è la coperta accesa, la coperta elettrica, al caldo, TV e sta parlando al barattino. Occhio che non ti pigliavo con Luisa. Niente, si c'è di la bizzona, mi fa. Ma lo sai, già, l'altra volta si è chiuso tutto il bruciato. E si è chiuso, con lo spinocchio da guardare con la coperta, il video, i figli, tutti su. Ma se mai gli è stato un salvavita, che... Mica non devi dormire con la coperta accesa, mi la devi scaldare, ti devi far scaldare il letto, e poi la devi staccare. Cazzo, ma te mamma, vai. Cazzo, non è solo un etichetto di staccarla. Ero convinto che avevano il termostato questo coperto, invece non ne hanno. No, ne hanno il termostato, no, cosa il termostato? Ma non fu metà attento di incendiare tutto. Mamma abbia dovuto già. Lascia perdere. Praticamente la devi accendere un po' prima di coricarti, ti scalda il letto e poi la stacchi, poi basta, poi una volta che sei dentro il calore ce l'hai, no? Una volta che sei al coperto, capito? Mamma l'aveva lasciata tutta la notte al seggio, a giomai si incendia. No, claro, ho convinto, perché aveva un termometro raggiungeva la sua temperatura, ci stai dietro, invece non è stato acceso. E beh, sempre accesa rimane fra, non ne ha termostato, assolutamente, hanno sbagliato, le dovevano metterglielo, capito. Avanti già, rilancia Tonino per essere rientrato. Ehi, ma com'è la cassata russa? Ah, ma come non si è bruciata la bicicletta? E comunque mi hai detto che ha pigliato una lega di studio a Sardegna. Ma vedi? Per carità, guarda. Io non lo so se è arrivata una. Oh, poi danno la copertella. A me. Cosa ci ha venuto 2 litri di vino, cazzo il suo. 2 litri di vino è andata a bottiglia di San Marco. E allora è alcolizzato brutto. Per me so. Era un aggiunto, perché dovevo aiutare che facesse macchina mia. E non dico niente. Ho preso un caffè e lì giusto per... Vabbè, lui ha bevuto la macchina mia, però adesso quando arrivi di oggi a pigliarsi la macchina da 4 anni, mi sono separato tutti i cani da becca, ruzzani, guarda, lascia stare. Ma ci abbiamo fatto un grande. E qua se lo volevo accompagnare io, ci accompagno io, poi no, no, già ci arrivo, tranquillo, se qua c'è qua. Poi non ho capito, vabbè, è pure... due carabini. Due carabini. Via. Il vizio è brutto di bere. Sì, vabbè. Ogni tanto si prende la schizziata. Adesso va a casa e la moglie di Ma cosa va a dire la moglie? Sennò si prende il soffitto addosso. No, è che la discorso con il soffitto, non si fa la nemmeno. È peccato.